11:05, con un po' di ritardo cominciamo la puntata di Parole Ribelli di questa mattina, la trasmissione del collettivo universitario autonomo. Noi siamo Costanza, Carla e Francesca, vi salutiamo e tra poco presentiamo la puntata. Vi ricordiamo prima i contatti, chiamateci al 346-6673-263 o al fisso 011-2495-669. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta. África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. State ancora ascoltando il bobinone di Radio Blackout. Sintonizzando con il mondo dello vivo desde Radio Mclan. Radio Mclan. Dedicata a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma la bobina è arrivata in nostro soccorso. Torniamo alla normale playlist di Parole Ribelli. Cielo, vamos. Sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos. Allora, 11 e 12, come sempre andiamo a presentarvi brevemente la puntata di quest'oggi. Per quanto riguarda i collegamenti telefonici, torneremo a dare alcuni aggiornamenti dalla Francia, dove prosegue appunto la mobilitazione contro la loi Travail. Ieri ci sono state anche delle occupazioni da parte dei lavoratori e si avvicina la data del 14 giugno con lo sciopero generale, quindi appunto andremo a farci aggiornare, anche a presentare un'occasione che ci sarà la prossima settimana di dibattito qui a Torino per confrontarsi su quello che sta accadendo. Ci metteremo poi in collegamento con da Roma, insomma, con i compagni e le compagne che ci presenteranno il loro progetto Famo Capis, che ha portato insomma in questi giorni a lavorare, a fare diverse iniziative nei quartieri. E per quanto riguarda gli appuntamenti, andremo a presentarvi il convegno che ci sarà questo fine settimana. Lo faremo con le mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso, che sono state insomma tra le promotrici appunto di questo appuntamento, che sarà sabato, per confrontarsi appunto sull'offensiva giudiziaria che da qualche mese a questa parte si sta dispiegando a Torino. Ci saranno anche alcuni avvocati, quindi insomma sarà un'occasione per affrontare questa questione da vari punti di vista. Come sempre poi cercheremo insomma di fare un po' di rassegna stampa su articoli insomma che abbiamo trovato, abbiamo spulciando un po' per quello che riguarda il mondo della formazione, e ricorderemo gli appuntamenti di questa settimana. Tra poco allora cominciamo con le dirette, intanto ancora un po' di musica. Hello, hello, j'empresse les nerfs à l'enfer, qui prônent un royaume qui ressemble à l'enfer. Prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer, horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vice et de banksters. Vente d'indignation venue de la planète entière, fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes, gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi, alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête, l'angoisse et les cris étouffés par le paraître, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être, brise tes chaînes. Écoute le souffle de l'âme, les foules n'ont pas raison. De drame, ne se pose pas de questions. Ici, y a tout de grave, chante de plaies, de lésions. Sur ma cadavre, les cœurs se fanent, car l'atmosphère est sous pression. Hello, hello, j'en pressais sans inhibition, qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction, les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, se poise, détresse, l'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche et ses champs d'SDF. Légitime, on se bat, on se lève, véridique, j'ai jeunesse, y'a plus d'une, on se rêve, on trahit, on se crève. En secret, on s'aime, on haït, on saigne, si on faille, on sait. On crève si on cède, rien n'est pas si l'on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi, alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête, l'angoisse et les cris étouffés par le paraître, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Hello, j'en pressais des laissés d'histoire qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Dérisoire, rêve de vitrine, victime, tuerée pour la gloire, attirée par ce qui brille. Pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir, désabusé, à force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés. Insoumission, qu'on veut morte ou derrière des barreaux de prison. Digne héritière, étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression. Arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons. L'inertie totale, infectée, les plaies, le sang sclérosé par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi, alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête, l'angoisse et les cris étouffés par le paraître, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver vuoi, tanto pagherai tutto quando arriveremo noi. Siamo una tribù di gente strana che rimane in piedi, portiamo i segni sulla pelle oggi come ieri. Se vedi la mia bandiera sventolare nei cieli, non serve che scappi, non serve che preghi. Avventurieri, chiamaci così, cittadini di un mondo diverso, non di questo qui. Una pistola carica in una mano ed una sciabola corta nell'altra. Avanziamo, assaltiamo, deprediamo, ripartiamo, siamo rinnegati dal re e dal Vaticano. E la Repubblica dei rifiutati da tutti gli stati. Dio non ci benedice gratis. Da lassù i pennoni urlano terra in vista. Da qua giù i cannoni fanno da apripista. Il sangue, il sudore, l'odore che si mischia. In alto l'onore, la fame di conquista. Non si ferma, non è abituato a vivere sotto coperta. Non teme la fame, neanche il freddo e la tempesta. Sta sempre allerta, cerca terraferma. Per questo scruto l'orizzonte, tra le onde, incurante del pericolo che incombe. Mentre sopra il ponte sbattono i barili, tra rigoli di sangue e polvere per i fucili. Qui nessuna regola, vince il proprio istinto. Morte a chi tradisce o si dà per vinto. E se nel cielo sventola il mio Jolly Roger, per voi non c'è più scampo, è finita, game over. Top, I barely survive, but I broke through my grave, ripped the pine box, fell apart, head first, yelling, maggot brain, funkadelic art. There is a dark side, fair where the friends fly, Hitchcock, same bird scatter when the end stop. Couple let their guards down, figured it was up for certain, talking about next, time to pull next, the plug and close the curtains, eyes wide, bug like, holy leaping Lazarus, I thought that y'all were, never mind, material never mind. Still hazardous, hazmat, clutching their chest like asthmatics, from mathematics, the natural dash of black magic, yeah. Salute to new voices, flexing power, advancing the balance of modern branded versus classic sound clashing, took heavy fire, survived the crash, landed, smiled and walked away from the wreckage, the last standing. They thought that it was gone for good. They figured it was good as gone. They thought that it was gone for good. They figured it was good as gone. You know the saga. Who lava? Sacrifice my life, but I won't give in. Won't give in. They thought that it was gone for good. See what your eyes dilated for the sake of the G's. Devise a plan and I execute it till I'm undisputed. If the record never stated, I've been showing most improvement. At a time when my peers declined, I used it as a booster. Used the dedication as a plus, I ain't used to losers. Locked the rail loops from the safe, then I changed the combination. Then I set the pace, settled down and laid the conversation. Drew an outline that made me think that this a new beginning. Kept an older frame of mind when I've been spraying all the feeling. So God bless. bless us. Cut from different cloths and different textures. Different walks of life, some acts, some art directors. Some are extras, and those ain't easy to find. And I ain't easily defined. What's fame? A thin line. I've been thinking, walking over the edge, but keep blinking. Taking two steps back to my zone for no reason. Call it comfort, and that is not the best for my heart. Not the best way to end, and not the best way to start. Good is gone. They thought that it was gone for good. They figured it was good is gone. They thought that it was gone for good. They figured it was good is gone. You know the saga. Who sacrifice my life, but I won't give in. Won't give in. They thought that it was gone for good. See what your eyes dilated for the sake of the G's. I was out of mind in sight. Dark clouds all around me, trying to find the light. Took flight with the dot dot, legs dangling, cliff hanging, never docking my spot. I stand by what I say, cause I'm easy to find. Dates posted every day of the year in bold lines. The more that I roam, the more that I'm free. The more I'm in Rome, the more that I'm me. The more I'm at home, the more that it's stress. The moral is, we be touring at best. I'm not the same old run of the mill who keeps running until the feet tell him put the runners to rest. I've seen the last come first. I've seen the first last. Double majored in life. Some of the worst past. Yeah. Back to school, learning secrets that the earth has. Sat in coach and studied business before my first class. They thought that it was gone for good. They figured it was good is gone. They thought that it was gone for good. E allora iniziamo con la prima diretta di questa mattinata e andiamo a parlare di Francia. Insomma, ci teniamo tutte le settimane a dare aggiornamenti su come prosegue, insomma, questa mobilitazione contro la loi travail. Allora, come al solito abbiamo in collegamento con noi Martina. Ieri è stata un'altra giornata di blocchi e scioperi, tra l'altro è stata anche occupata la sede della Confindustria francese. Andiamo verso la giornata del 14 di giugno dello sciopero generale, insomma il giorno dopo il ritorno della proposta di legge in Senato. Comunque adesso c'è con noi in linea Martina che si trova in corteo. Intanto ti salutiamo, ciao Marti. Ciao. Ecco, allora tu adesso stai facendo un corteo in stazione. Sì, esatto, in questo momento siamo a Ponte in corteo a Gare du Nord con appunto il ferroviario in sciopero e appunto stamattina è una giornata di azione già a partire dalle 6:30 di stamattina che si è andati diciamo a dare il buongiorno al Comri cercando di bloccarle diciamo sotto casa sua e poi però diciamo che dopo una mezz'oretta, tre quarti d'ora la polizia è arrivata a evacuare diciamo la strada e poi abbiamo appunto raggiunto lo sciopero dei ferrovieri e in questo momento siamo a Gare du Nord dove tra l'altro c'è diciamo l'inaugurazione anche un po' degli europei. Infatti diciamo che si incrocia con l'appello di sabotare appunto gli europei perché c'è questo treno a Gare du Nord dove si può entrare per andare a vedere il trofeo, la coppa degli europei e appunto protetto da uno schieramento di forze dell'ordine e, però in questo momento niente, con il ferroviere abbiamo fatto un corteo interno alla stazione e ora stiamo andando ad occupare i binari. Ecco, si avvicina appunto, dicevamo, la data dello sciopero generale della prossima settimana. Mi sembra appunto che in queste ultime settimane lo sciopero appunto stia toccando vari settori, un po' a singhiozzo. Abbiamo visto appunto il settore dei trasporti è stato abbastanza in prima linea in questi giorni, ma non solo, c'erano stati i blocchi delle raffinerie, eccetera. Sono previste appunto altre tappe intermedie prima della giornata del 14. Allora, appunto, come ci senti? E appunto, oltre ai trasporti, è stata bloccata anche la discarica, diciamo, il punto di snodo dei rifiuti, uno dei più grandi dell'Île-de-France. E poi appunto oltre ai trasporti ci sono anche le poste che si sono messe in sciopero e appunto c'è questa cosa degli europei, quindi domani, no, venerdì che è 10 che iniziano, ci saranno altri presidi e altre iniziative, e per arrivare al 14 in particolare questo weekend è stata chiamata una 2 giorni di assemblee nazionali e di dibattiti, in modo tale da appunto invitare un po' tutte le assemblee di lotta di tutta la Francia a salire su Parigi per sparare insieme appunto il 14. Ecco, invece un'ultima cosa, abbiamo seguito da qua la giornata di sabato, che insomma in cui ci sono stati i cortei per Clément, hai qualche insomma, sei andata, hai qualche cosa da raccontarci? Allora, sabato si è appunto sarà il corteo antifascista, e diciamo che è stata una giornata molto complicata, proprio perché appunto il percorso del corteo innanzitutto passava lungo il canale, lo stesso canale lungo il quale si era passati con una manifestazione spontanea durante la quale era stata incendiata la macchina della polizia e appunto per la quale sono stati accusati tra gli altri alcuni componenti dell'antifascista Paris Banlieue, che appunto erano coloro che hanno organizzato il corteo per Clément. E appunto diciamo che durante il corteo c'è stata una vera e propria vendetta della polizia che ha impedito di proseguire la manifestazione e poi ha accerchiato i manifestanti dopo appunto un pistolante di lacrimogeni eccetera, impedendo quindi addirittura di poter arrivare fino alla fine del corteo. Però appunto nonostante questo partecipato per ricordare Clément e diciamo tutti gli altri, le altre vittime di fascismo di Stato e eccetera. Ma questo corteo di sabato in parte insomma si è legato anche a quanto sta accadendo in questi mesi contro la riforma del lavoro, diciamo c'è stata una convergenza per quanto appunto si tratti di questioni diverse, appunto già l'anno scorso in occasione dell'uccisione c'era stata una mobilitazione antifascista molto vasta, però appunto mi chiedevo se magari in questo periodo di mobilitazione generale in parte queste istanze appunto si fossero incontrate. Ah, diciamo che non c'è stata una vera e propria convergenza, quello che posso dire probabilmente più che altro che inserendosi in questo contesto di mobilitazione, quindi ha ricevuto anche in conseguenza una risposta molto repressiva, essendo appunto in un contesto così di totale repressione sui manifestanti, da appunto visto che la mobilitazione dura appunto da più di 3 mesi ormai, e boh, un po' su questo direi. Va bene Marti, allora noi ti auguriamo un buon corteo, una buona giornata da qui, sicuramente torneremo a risentirci la prossima settimana, insomma i prossimi giorni per nuovi aggiornamenti. Un saluto dalla radio. Ciao Martina, ciao, a presto. Ciao, a presto. Allora, questo appunto per quanto riguarda Parigi, insomma, visto che questa mobilitazione prosegue ormai da tempo ed è guardata con interesse da diverse latitudini, ci sembrava importante insomma organizzare un momento di confronto e di discussione su questo tema anche qui a Torino. Allora martedì prossimo, che è appunto in occasione della giornata di sciopero generale del 14, ci sarà un dibattito a Palazzo Nuovo, in cui appunto avremo alcuni collegamenti da Parigi, uno appunto con Martina, l'altro con Davide Lassere, che è un ricercatore all'Università di Parigi, che in questi mesi appunto ha seguito la mobilitazione, ha scritto anche alcuni articoli sulla genealogia di questo movimento, sulla sua composizione, quindi avremo appunto alcuni contributi diretti dalla Francia, e poi ci sarà appunto a seguire un dibattito, la proiezione di alcuni mini documentari che raccontano un po' questa mobilitazione. Quindi iniziamo a ricordare

gunland. Blood run cold from the white sand. Concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study ratatatantan. Them dig more grave than rooms over hills and small community get washed out by a blood storm. Every weekend same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey. Them blows one tiny something, I do perfect boobs. Them always a smile if you got BMI. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. Sibling down, sibling down, it's a quiet town. Andiamo insomma a raccontare una notizia, una cosa accaduta nell'Università di Torino da pochissimo. Allora, in quest'anno di elezioni comunali è successo che una ventina di studenti iscritti alla magistrale di comunicazione pubblica e politica sono stati, insomma, gli è stato fatto fare questo progetto di ricerca e di inchiesta dal professor Cepernic, un professore di corso che ha proposto loro insomma di aderire a questo stage sul campo in cambio di crediti CFU e rimborsi in denaro. Di cosa si tratta? Questo stage riguardava un appunto delle inchieste che all'inizio sembrava indagasse su sulla città, sul clima di elezioni comunali, e in realtà si è rivelata una insomma si è rivelata come una partecipazione diretta a una campagna elettorale per Piero Fassino. Infatti a questi studenti è stata fatta indossare la pettorina dei volontari di Noi Siamo Torino con scritto Piero Fassino candidato a sindaco di Torino, e sono stati fatti girare per la città con dei questionari e delle domande da porre, e in questo modo insomma questi studenti hanno fatto una valutazione generale sull'approvazione della città rispetto al PD e rispetto a Piero Fassino. È successo poi che questi CFU promessi ancora non si sono visti, neanche i rimborsi, che infatti non sono stati dati a tutti gli studenti ma sono stati dati solo a quegli studenti che sono stati referenti di questo progetto e sono stati scelti in base alla loro motivazione verso questa ricerca. Ci chiediamo motivazione a fare cosa, visto che questi studenti sono stati inseriti praticamente nell'appello di volontariato Noi Siamo Fassino. che dire, insomma, il PD non è nuovo a fare queste cose, nel senso che anche nel piano di riforma di Renzi, sia nella buona scuola sia nella riforma universitaria, le prospettive sono quelle di inserire il lavoro gratuito insomma ovunque sia possibile. Infatti gli studenti vengono sempre sfruttati per fare delle ricerche o dei lavori, gli vengono promessi crediti CFU in cambio, gli vengono promessi dei rimborsi che poi magari non si vedono, oppure semplicemente sfruttano la nostra motivazione, sfruttano le nostre passioni rispetto a per quello che studiamo, insomma, per sembrano autorizzati a usarci sia per la loro sporca campagna elettorale che per lavori di altro tipo. E quindi anche, insomma, l'Università di Torino rispetto a questo piano di riforma non si tira indietro, ma si fa direttamente carico di questi progetti. Sì, è abbastanza emblematica anche poi la risposta che il professore, appunto, che ha promosso questo progetto ha dato. La notizia è stata fatta uscire qualche giorno fa su Repubblica, dove appunto alcuni di questi studenti si lamentavano poi della piega reale che questo progetto aveva preso, e questo professore, un po' interpellato su come questa cosa fosse potuta accadere, ha risposto molto candidamente che lui non ci vedeva niente di male, che la ricerca sociale appunto si fa anche così, e che quindi per lui era assolutamente normale, che semplicemente il comitato elettorale di Fassino era stato il primo a proporsi per questo progetto, e quindi loro hanno pensato bene di indirizzare il progetto in questa direzione. È chiaro che appunto fingere di non vedere che c'è una differenza tra presentare un tirocinio di ricerca e poi mandare degli studenti a fare campagna elettorale gratuita per Fassino non è la stessa cosa, ma evidentemente appunto certi baroni e professoroni hanno ormai possono permettersi un po' di dire quello che vogliono anche con una certa faccia tosta, e confermano appunto anche tutto quel sistema di relazioni, di amicizie, di scambio tra la politica, una parte dell'università e non solo. Però appunto ci sembrava importante commentare anche a distanza di qualche giorno questa notizia, perché appunto, come diceva Carla, sono tanti aspetti che richiamano anche diciamo i processi di trasformazione attuali dell'università. Hands stay clean till the well go dry. The clutch kinda sticks, right? Aim for the sky and let a few fly. In due time gonna get right. There's no loose ties, I'm not the new guy. I'm just one hand at 12 o'clock. The other one stirs your melting pot. And if I had a third hand, I'd use it to turn up the music louder, louder. You like to complain, huh? You gonna hide till the rain comes? Feel my shine, I'm the same sun. No matter what I've done, I remember where I came from. The flood made the neighborhood messy, but you've got the keys to the Chevy. Have to drive until the afterlife so we can steal the feast out of the beast's belly. We ain't gonna die today. Right now I'm wide awake. Tell her that the devil got a price to pay. Letter by letter, all I'm trying to say, that we ain't gonna die today. Right now I'm wide awake. Rock solid, head held high. Hands stay clean till the well go dry. Right now I'm wide awake. Right now I'm wide awake. Right now I'm wide awake. Hands stay clean till the well go dry. One wheel for the clock that we live within. I feel like your father, discipline. It's unconvincing when I tell him that hell ain't nothing but a place in Michigan. Two wheels in the gutter, engine revving. I feel like your mother, listen, suggestion. Don't test if you're really not a threat. If my crew get fresh, take you all the way to heaven. Honesty stinks a little. It's 'cause it comes from deep inside you. It's covered in blood and bile, and it tastes so self-entitled. And you can keep a wood stake in the trunk on the off chance that the fairy tales ain't bunk. And I'ma save a bottle of that funk to get motel parking lot balcony crunk. A true fiend will hit the screen, halfway there trying to live the dream. Cops with lights shining in my face, cause my name's not attached to these license plates. Freedom is a paperweight, but you can't explain that to an inmate. So I'ma keep rolling past these mile markers and deliver this flame to the fire starters. We ain't gon' die today. Right now I'm wide awake. Tell her that the devil got a price to pay. Letter by letter, all I'm trying to say, that we ain't gon' die today. Right now I'm wide awake. Rock solid, head held high. Hands stay clean till the well go dry. Right now I'm wide awake. Right now I'm wide awake. Breaks my heart, cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you, no. Story, obviously. Never be. And you will never know. I will never show. Non sento niente in cuffia. Ora sì. Fammi registrare. Yeah. Stock e Buddy alias Tasters, Palermo Centrale. Yeah, Big Joe. Senti. Fuori dal concerto siamo tutti uguali, con le mani sopra gli strumenti musicali, nelle officine con le chiavi per aprire il cielo e per vederci sempre meno. Ma poi il latte va male, la cassetta rallenta e tutto sto calore che sparisce ti allerta. Puoi estrarre le spade da una vita di merda, puoi guardarmi nella borsa ma non credo che serva. Allora frate ascolta, butto il disegno per essere bravi, nelle brandine in corsia targato casi umani, dietro le porte dei caffè eroi letterari. La legge di gravità fa leggere le cose gravi. La meglio voce del coro, fino a che lei ti ha smollato per sguazzare nell'oro. Stanotte pensi di restare al lavoro, senza smani e di vedere un giorno nuovo. Quest'è. In questo mondo non passo più in là, nelle cose del tempo che fa, tra le luci e il traffico, oro dentro te. In queste strade divise a metà, come l'amore che un giorno sarà, una vita al massimo libera come te. Le coincidenze sono casuali, come due dadi sul tappeto dei numeri pari. Due vite spezzate in parti uguali, sono le fondamenta di calcoli elementari. Non c'entra questo mare spazi tra le boe, l'ennesimo artista supereroe. Puoi immaginare questa vita sopra le canoe, io vivo stretto sulla nave delle cose nuove. Vorremmo giorni stop fuori alla finestra, guardando il mondo passare verso Vatte la pesca. Ascolto un suono che arriva da una macchina a destra, guardo lontano, richiamo della foresta. In fondo tutto sembra scritto su pagine bianche, come l'inchiostro delle occhiaie sopra facce stanche. La differenza tra me e loro non è così grande, come l'oceano che separa le Alpi e le Ande. In questo mondo non passo più in là, nelle cose del tempo che fa, tra le luci e il traffico, oro dentro te. In queste strade divise a metà, come l'amore che un giorno sarà, una vita al massimo libera come te. In questo mondo non passo più in là, nelle cose del tempo che fa, tra le luci e il traffico, oro dentro te. In queste strade divise a metà, Muddy Fucking Waters mixtape, man. I'm high as a bitch up in this motherfucker. I need a beat. I need a fucking beat. I don't need no turn-up beat. I need some elements, some hip-hop. Let's get back to some elements and shit. Yeah. Josh, I like that, man. You like that, man? Let's turn that shit up, man. Yeah. Lyrical wordplay for y'all. I feel good on this one, man. This is how real MCs do it, you know. Yeah. I like this shit a lot, man. Done for y'all too. Rome, New York, we in the building. Check it out. Yo, when I hit the bong, I'm Godzilla taking over Hong Kong. Eating wonton with a shotgun and long johns. It's not unsung. No story here to tell. I'm just ready. I'm a student before the school bell. Fail my wordplay Thursday, boy, I bust off 3Ks on Martin Luther King birthday. Berkeley College for $20. If I got it, smoke here, inquire my knowledge. A little psychotic, I know. Rate me, I'm Michael Jordan. The Fighting Four, fighting with Wayne Gretzky. I'm not relevant, let's see. Who's spitting? Some of y'all Coke and Pepsi. I can't tell the difference. I'm Daryl when I'm pitching. Before the white girl had him twitching. Not a rap game in my kitchen. Easy pickings. Rebel with the calls my mind. It's like fuck with mine. I put your mind on the wall. I'm on tour getting bread and tattoos, and your job is giving Tic Tacs and bathrooms. I hate gossip, I mash up your media mosh pit, release a baboon in a chat room. My weed bag's a vacuum to smuggle. Off of one blunt, a bitch gon' fuck you. Chicks TiVo the meatloaf when I hit they belly. Doc dropping all dimes, Rico. Take precautions, I got a pallbearer that Bill Coffins for all rappers and nonsense. Nonchalantly, I'm thinking darker than a comic. 11.56, continuiamo con le dirette di questa mattina. Torniamo a parlare insomma di cosa succede qui in città. Infatti questo sabato si terrà al Caffè Basaglia il convegno dal nome Offensiva Giudiziaria e Strategie di Controllo contro la Libertà di Manifestare. Un convegno insomma organizzato perché è sotto gli occhi di tutti un po' come da tempo si sia instaurato un meccanismo che insomma partendo dalla Val di Susa per arrivare fino qui in città vede un'offensiva giudiziaria come mezzo per affrontare proprio questioni politiche e sociali che vanno poi a erodere insomma le libertà personali di chi si oppone, di chi manifesta, di chi vuole esprimere il proprio dissenso. Parliamo di momenti di contestazione trattati come fatti di gravità eccezionale da fatti che riguardano episodi di resistenza, dalla Valsusa, picchetti antisfratto, o insomma anormali momenti di contestazione di situazioni di piazza, piuttosto che parliamo di episodi di contestazione a gruppi di fascisti e xenofobi in università. Comunque, insomma, adesso abbiamo in collegamento con noi Diana. Diana fa parte del comitato delle mamme in piazza contro per la libertà di dissenso. Intanto ti salutiamo e ti chiediamo se ci senti. Ci sento, vi Ciao, sento. Diana. Ciao. Ecco, voi parteciperete al convegno di sabato. Sì, pensiamo, ci saremo sicuramente con un nostro piccolo intervento. E insomma, il percorso un po' che vi ha portato a decidere di esprimermi in quella sede, ce ne vuoi parlare? D'accordo, allora, non sto a dilungarmi su chi siamo, perché già ci siamo conosciuti, avete avuto modo di conoscerci. Come voi sapete, siamo nate dall'esigenza tra mamme di confrontarci, perché tutte quante in comune avevamo figli sottoposti a misure cautelari molto severe. Se vi interessa seguirci, abbiamo la nostra pagina Facebook e abbiamo una petizione aperta su change.org per la libertà di dissenso. Siamo nate pensando ai nostri figli, ma oggi confrontandoci sentiamo di dover dare la nostra mobilitazione anche a disposizione di tutti quelli che stanno subendo degli abusi da parte della giustizia. Sentiamo l'urgenza di non mettere nel silenzio i comportamenti di una certa magistratura nei confronti dei reati di piazza. Oggi sono i giovani a pagare un prezzo alto, domani potremmo essere noi adulti, noi lavoratori, e proprio perché si rimanga cittadini e non si diventi sudditi, vogliamo tenere alta l'attenzione su questo problema, su questa anomalia della Procura di Torino, nella speranza che non diventi un esempio per tutte, per altre procure o altre questure. Ci accorgiamo sempre più che la radio, i giornali mettono in risalto i fatti minori, trascurando o manipolando i fatti più gravi, generando così una sorta di frustrazione su chi non si sente ascoltato, generando una spirale del silenzio che può essere solo dannosa per la crescita della nostra società. Il nostro comitato si augura di coinvolgere quanti più cittadini è possibile e ci auguriamo anche che siano anche loro a scendere in piazza per non lasciare solo ai giovani il compito di manifestare. Parteciperemo al congresso con la volontà di crescere, maturare, di non rimanere solo sul piano di uno sfogatoio emotivo. Vogliamo dotarci di strumenti adeguati per poter pensare, dibattere, argomentare. Il nostro impegno è cercare di allargare la nostra cerchia facendo rete con altre madri, comitati o associazioni che ogni giorno si impegnano per la libertà di dissenso. Stiamo mettendo allo studio anche delle iniziative sia sul piano divulgativo che culturale che mediatico. Questo è quello che ad oggi posso trasmettere a voi come messaggio da parte del nostro comitato. Va bene, Diana, noi ti ringraziamo, ricordiamo quali sono appunto, qual è il programma di questo convegno di cui stiamo parlando. Comincerà

summer sun. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Sunshine, sunshine is fine. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it. :12:13, bentornati all'ascolto di Parole Ribelli. Ci avviamo verso l'ultima mezz'ora di trasmissione per questa settimana. Allora, dopo la corrispondenza con Diana per ricordare l'appuntamento di questo fine settimana, torniamo a un po' di rassegna stampa. Lo facciamo a partire da un articolo che è uscito nei giorni scorsi sull'Espresso nella versione online, che titola "Buona scuola, cattiva vita, noi insegnanti costrette a trasferirci". Si tratta di un lungo reportage, appunto, con alcune interviste e testimonianze di una serie di insegnanti che, appunto, all'inizio di quest'anno hanno vinto il concorso, l'assunzione tramite, appunto, la Buona Scuola, e che sono state costrette però a spostarsi in giro per l'Italia. Ricordiamo, appunto, che questa questione dell'assunzione dei precari era stato un po' appunto era stato sbandierato con grandi annunci dal governo Renzi come uno dei punti di forza della riforma della Buona Scuola. Sicuramente, come avevamo già avuto occasione di dire, il problema delle migliaia di precari della scuola che da anni si barcamenano tra graduatorie infinite, tra concorsi, insomma, che servono poi solo a spillare una gran quantità di soldi e che poi, appunto, li lasciano puntualmente senza alcuna prospettiva, appunto, è sicuramente uno dei problemi della scuola pubblica. Detto ciò, appunto, questa questione delle assunzioni in realtà si è rivelata più che altro uno spot del governo Renzi, perché a ben vedere di problemi ne ha risolti ben pochi, anzi ne ha creati di altri. Diciamo che il punto principale che le insegnanti che sono state intervistate in questo articolo lamentano è il fatto che si sono ritrovate da un giorno all'altro costrette a spostarsi a migliaia di chilometri di distanza dalla città in cui vivevano, lavoravano, per poter, appunto, avere questo posto di ruolo. Quindi si sono trovate di fronte a tutti gli effetti a un ricatto economico, perché rinunciare non voleva semplicemente dire rinunciare al posto di lavoro per quest'anno, ma perdere anche, appunto, tutti gli anni che hanno alle spalle, in alcuni casi anche 10 anni, appunto, di supplenze, di lavoro precario, di, appunto, di graduatorie e quant'altro. E in questo articolo, appunto, ci sono molti dati, tra cui, appunto, spiegano che in media la distanza che sono stati costretti a percorrere arriva, appunto, al migliaio di chilometri, e questo perché si tratta per la stragrande maggioranza di insegnanti del sud che sono stati costretti, appunto, a muoversi verso le scuole del nord. E questo anche, come spiega l'articolo, per una questione di diversa organizzazione delle scuole, per cui al sud il tempo pieno in molti casi non esiste, con gioia peraltro delle scuole private, che su questo fanno grandi affari, perché molte famiglie, appunto, per poter appunto aver garantito l'orario a tempo pieno dei figli per questioni di lavoro o altro, sono costrette a rivolgersi alle scuole private, mentre le scuole pubbliche non garantiscono questo tipo di servizio, cosa che invece diciamo nel nord e nel centro Italia è più diffusa, e quindi c'è anche una richiesta maggiore di insegnanti. E quindi ancora una volta, diciamo, sono i precari del sud che per quest'anno hanno garantito diciamo di mandare avanti la baracca sempre più traballante della scuola pubblica italiana. L'altro punto, appunto, che lamentano è che poi insomma non solo quest'anno sono stati costretti a lasciare, appunto, la propria città e a spostarsi da un giorno all'altro, avendo di fronte a sé, appunto, la prospettiva di rinunciare a tutti questi anni di lavoro e a rinunciare per sempre alla possibilità di un posto nell'insegnamento che possa essere definito tale, ma non hanno nemmeno poi la certezza che per il prossimo anno scolastico rimarranno effettivamente nella città in cui si sono spostati, per cui ci sono buone probabilità che a settembre questa epopea si ripeterà. E quindi appunto adesso in questa settimana di fine della scuola questo articolo fa un po' un bilancio di quello che è stato questo anno di buona scuola, e diciamo che di buono c'è veramente poco. C'è da dire che appunto l'articolo poi ha dei toni a tratti anche abbastanza criticabili, nel senso che insiste molto su questa questione delle mamme che sono costrette a lasciare appunto il loro ruolo di madri per spostarsi. È chiaro che appunto intervenire in maniera così violenta e ricattatoria nelle vite, nelle scelte, nelle esperienze delle persone è un problema, però appunto forse una critica un po' più esplicita alla riforma e non tanto appunto a questi toni un po' melodrammatici che in alcuni casi l'articolo assume, forse avrebbe dato, diciamo, un quadro un po' più chiaro di quello che questa riforma ha comportato. Però diciamo il pregio dell'articolo è di insomma non solo di dare voce a queste insegnanti, ma anche di dare una serie di dati piuttosto appunto puntuali sui numeri di questi trasferimenti, che appunto sono abbastanza comunque impressionanti, e la tendenza appunto non sembra destinata a invertirsi per il prossimo anno scolastico, quindi il problema tornerà a riproporsi, e insomma ci sembrava importante segnalarlo. Comunque, se lo volete leggere appunto sull'Espresso: buona scuola, cattiva vita, noi insegnanti costrette a trasferirci, e noi sicuramente appunto sulla questione della buona scuola avremo modo di tornare, come già abbiamo fatto in questi mesi, andandolo un po' a prendere da vari punti di vista. Apre il circo e suonano canzoni quasi malinconiche, suono di fruste e di fisarmoniche. Cavalli alati con le maschere comiche, elastici alle ali, segregati in gabbie di lacrime ironiche. Quelle pecore morto nel leone, comandate dai serpenti col viscido nel cuore, che strisciano fra foglie che riescono a farla franca. Il botteghino fa i biglietti e il pubblico guarda. Un leone a terra, sangue e segatura. Gli animali in gabbia esplodono di rabbia sotto serratura. Il pubblico applaude la pecora infame che ora pascola. Mangia nel circo con le amiche schiave. Il pubblico ha paura, il circo butta via il leone. In campo a quattro foche che si passano un pallone. È fatta. Il pubblico sorride, sembra più felice. E anche le macchie di quel sangue sembrano sparite. Ci fosse solo un posto, me ne andrei di qua. Avessi solo un modo per portarti via. Ti porterei in un mondo senza gravità, senza paura, senza circo, senza la follia. Ci fosse solo un posto, me ne andrei di qua. Avessi solo un modo per portarti via. Ti porterei in un mondo senza gravità, senza paura, senza stato, senza polizia. Asini stanchi vanno avanti, macinano il grano, e pochi porci che si abbuffano, ingrassano piano. Uno spettacolo macabro, sappiamo che nell'anima del circo è un sistema umano. Trampolieri passano, alti come un faro, sembrano giganti. Sembra che tocchino il cielo con una mano, hanno diamanti addosso e s'alzano, compensano bassezza. Ma la felicità non è un fatto d'altezza, tutto gira intorno nella falsità d'un giorno nel circo. Un pappagallo che ripete ciò che gli hanno scritto, delle pecore che è morto nei leoni, di giudici buoni, un pubblico di Dio che guarda e sta zitto, e tutto riga dritto, anche troppo nella sua stortezza. Io che volo, guardo dall'alto, mi fa tristezza. Anche se provo a urlare, qua nessuno sa sta lingua. Solo chi già vola e non può fare, ma domani ricomincia il circo. Ci fosse solo un posto, me ne andrei di qua. Avessi solo un modo per portarti via. Porterei in un mondo senza gravità, senza paura, senza circo, senza la follia. Ci fosse solo un posto, me ne andrei di qua. Avessi solo un modo per portarti via. Ti porterei in un mondo senza gravità, senza paura, senza stato, senza polizia. Life, mature.

come primo ministro Nelson Mandela. Io voglio più italiani con la pelle nera e come primo ministro Nelson Mandela. Lascio tutto, scappo e vado via di qua. Vado lontano e cerco la fortuna dove ancora non so. Lascio tutto, la mia terra, la famiglia, la mia identità. Vado lontano, il paradiso sta di là del mare. E vado via lontano, e vado via lontano. Lasciare tutto e ritrovarsi solo in un mondo diverso. Penso solo che probabilmente anch'io se fossi stato al posto loro avrei fatto lo stesso. Ma sarà perché ho avuto come esempio sempre solamente quello dei miei genitori. E si ricorda anche quando sono arrivati qui la gente li schifava e li chiamava terroni. Ehi, ehi, ehi. C'è chi prende e se ne va dove ancora non lo sa, ma ha bisogno della sua libertà. C'è chi scelta non ne ha, fugge per necessità e non ha altre possibilità, ma una chance. E sta al di là di quel confine dove ad un inizio corrisponde anche una fine. Come andrà a finire questo ancora non lo sai, ma ti fai coraggio, chiudi le valigie e te ne vai, vai. Lascio tutto, scappo e vado via di qua. Vado lontano e cerco la fortuna dove ancora non so. Lascio tutto, la mia terra, la famiglia, la mia identità. Guardo lontano, quella terra sarà la mia meta. E vado via lontano, e vado via lontano. Mi ha cresciuto senza la paura del diverso, l'inverso, lo sconosciuto. Sì, mi ha dato più della scuola in cui fin dalla prima ora io non mi ci sono mai riconosciuto. Mi ha insegnato a star profonde, a star muto, a me che farò al mondo il tempo di uno starnuto. Sì, batto le dita a tempo, sputo vita sopra il tempo. Questo sentimento mi fa da statuto. Questa traccia è un saluto all'hip hop e alla sua faccia, qui tendo la borraccia con alcol scaduto. Basta poco per essere felici, a due amici che il vero sacro fuoco non l'ha mai perduto. Amico mio, ti vedo cupo, a te che hai salvato più vite di Dio e loro t'han svenduto. Ci son qui io che ancora non gli ho creduto. E sì, ci son qui io che ancora non ho ceduto. Ma quale re, io sono giù con i ribelli che colorano le strade senza l'uso dei pennelli. E non ci può restare, noi siamo il maestrale, non ci può maestrare. Cazzo, non siamo di quelli, sì. Ma quale king, io sono giù con i b-boy che ballano sul ring come Ali, Ali Bumba, yeah. La guerra è contro se stessi e contro i vostri re che si cambiano in volta contro se stessi. Questa cultura è testimone di una generazione che abbiura per natura il proprio nome, sì. Nati dentro una modernità senza identità dove nessuno è padrone, manco di un'emozione. Son fuggito al metadone, al mito della nazione, alle teorie di ogni fazione. Fuggito a ste bugie, ho capito l'azione dell'amicizia e la giustizia come prima unione fra le persone. Ma spinto alla conoscenza come prima scienza che raggira ogni scemenza. Sta cultura è una rincorsa, è una forza oscura, quintessenza. In sua assenza io non cresco, non riesco, è una semenza. Contro ogni tortura, ogni sentenza, contro la paura, verso ogni differenza. Contro le vostre mura, fatevi diffidenza. Ora è sempre resistenza contro ad ogni dittatura. Ma quale re, io sono giù con i ribelli che colorano le strade senza l'uso dei pennelli. E non ci può arrestare, noi siamo il maestrale, non ci può maestrare. Cazzo, non siamo di quelli, sì. Ma quale king, io sono giù con i b-boy che ballano sul ring come Ali, Ali Bumba, yeah. La guerra è contro se stessi e contro i vostri re che si cambiano in volta contro se stessi. Ora che il rap è diventato pop, spazzatura credo ancora nell'hip hop. Sì, la mia cultura senza lucro e senza scopo, nessuna copertura, sembra un gioco, ma mi ha riempito il vuoto e non ho più paura. Più forte di qualsiasi sconvoltura, più importante di qualsiasi congettura, più potente di qualsiasi cura e natura. Ora sono più cosciente, la mia gente più matura. Su, tu trascura pure questi principi, sti principi bambini del rap, ben vestiti, finti miti, son falliti. Sì, si son venduti per due citi, durano quanto un contratto discografico, poi son falliti. Assorbiti dalle mode a colpi di frusta, assopiti dalle idee dell'industria. Asserviti non fanno la cosa giusta, riporta i veri principi su sta terra, Zarathustra. Sì. Ma quale re io sono giù con i ribelli che colorano le strade senza l'uso dei pennelli. E non ci per restare, noi siamo il maestrale, non ci per maestrare, cazzo non siamo di quelli. Sì. Ma quale team io sono giù con i b-boy che ballano sul ring come Ali, Ali Boumaye. La guerra contro se stessi e contro i vostri re che si cambiano il volto contro se stessi. Allora, prima di passare agli appuntamenti, andiamo ad annunciarvi quali saranno alcuni dei temi che andremo ad approfondire la prossima settimana. Infatti andremo a seguire la vicenda, la protesta, insomma la lotta che da qualche mese stanno portando avanti i lavoratori e le lavoratrici delle residenze e di su di questa città, che si trovano nella situazione per cui, insomma, una situazione che tra l'altro abbiamo già visto all'interno del sistema, insomma, dell'università qua di Torino. Si trova nella situazione per cui c'è l'azienda appaltatrice che da un lato non paga quello che deve pagare, sono infatti indietro con diverse tredicesime e cose di questo tipo, e dall'altro lato oltretutto insomma il futuro di questi lavoratori e lavoratrici è ancora più incerto, visto che a luglio dovrebbe andare a scadere l'appalto, con i problemi insomma che questo potrebbe comportare per il personale. Insomma, comunque ne ritorneremo su questo punto mercoledì prossimo. E è sempre, insomma, tra le cose che ci eravamo riproposti di fare quest'oggi, poi appunto per problemi di orario dei nostri interlocutori non siamo riusciti a fare, ma lo faremo appunto la prossima settimana. Andremo a sentire Maria Chiara Pievatolo, che è docente all'Università di Pisa, e lo faremo a partire da un articolo che è uscito in questi giorni su Roars, che si intitola "Un antidoto al feticismo dell'eccellenza, la carta per l'ineccellenza". Questa carta per l'ineccellenza appunto è la traduzione in realtà di un documento che è stato stilato dall'Université Libre di Bruxelles, che appunto con questo titolo un po' provocatorio mette a critica tutto il sistema appunto delle università attuali, basati sulle valutazioni esterne, sull'indicizzazione e appunto su questo mantra dell'eccellenza. Questa appunto chart della desexcellenza è stata tradotta, la trovate su Roars, e sotto c'è un commento di appunto di Maria Chiara Pievatolo a partire da questo documento. Quindi andremo a commentarlo con lei, appunto la questione di come vengono indicizzate le università, appunto la questione del merito, dell'eccellenza eccetera, delle agenzie valutative dell'ANVUR, è un tema di cui abbiamo già discusso, quindi torneremo ad approfondirlo a partire da questo documento. Questo appunto per darvi alcune anticipazioni sulla prossima settimana. Adesso vi lasciamo ancora un pezzo, poi chiudiamo con gli appuntamenti di questi giorni. Lesson, never wait my turn. Niggas wasting time on a tax return. We unemployed type of guys you wanna avoid. It's real in the streets and this gun ain't a toy. If you see us in the dark alley, better cross the street fast. Throwing burners up, cops watching, gotta be fast. Spray ground, backpack full of spray cans. We've been fucking writing on the walls since K-Man. unstoppable. Ain't concerned with nothing, hit you up with the arsenal. Disrespecting us will get you rushed to the hospital. With first degree burns and pain, you never stop possible. Stomp down, represent faceless notoriety. Defecate on anything, ain't no love inside me. Decorate the city cause it offer no variety. Fuck society, I bomb shit with no sobriety. Hitting bounce, ain't a cop that can stop it. 40 ounce sipping, I'm a 12 ounce profit. Look at what I done, made up my mind and then I lost it. Started just for fun and now I make a little profit. On a church, I don't care. Just releasing my demons like I'm writing in the mirror. If I cross your name out, that mean you're gonna get murdered. You better read the signs on the wall, we marking our turf. Give me a sharpie in space, I'll put my tag on the earth. I even bomb your piece like spit if you was there first. I'm a hooligan, terrorist, defacing private property. They moving in, evidence, it's all on hypocrisy. Violating my First Amendment, freedom of expression, in it. I'm on some shit where you won't know it till you step in it. It's from the heart, I do graffiti and blood. Call your name in jail, you'll be back, you won't be a thug. I'm addicted to vandalism, shit is a drug. I get high off the smell of pain and give me a bug. Allora, stiamo per concludere la puntata, ricordiamo alcuni appuntamenti della settimana. Stasera dalle ore 21 alla Blackout House via Cecchi 21A c'è l'assemblea, noi da qui non ce ne andiamo, sui recenti divieti di dimora e misure cautelari. 9, 10, 11 e 12 ci sarà la festa di Radio Blackout. Sabato 11 giugno Mad Pride manifestazione dell'orgoglio amato, piazza Carlo Felice, arriverà al parco del Valentino. I wanna hold you so much, at long last love has arrived. I thank God I'm alive, you're just too good to be true. Can't take my eyes. Siamo questa domenica 12 giugno, segnaliamo la grigliata Benefit Cassa di Resistenza per tutti i compagni e le compagne sottoposti a misure cautelari. Sarà nel giardino della Scatasuna, quindi Corso Regina 47, a partire dalle ore 13, e gratuita la prenotazione al 340-5869-706. Comunque potete trovare i riferimenti anche su Facebook. Baby. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. E allora, noi abbiamo concluso per oggi questa nuova puntata, insomma, di Parole Ribelli. Ci torneremo a risentirci mercoledì prossimo. Rimanete comunque sintonizzati su queste frequenze. Adesso lasceremo la parola all'info. Io vi saluto, un saluto quindi da Costanza. Un saluto anche da Francesca. E un saluto da Carla. Ricordatevi l'appuntamento con la Blackout Fest a partire da domani. Ci vediamo allo spazio 211. Well, you don't mind.